Semplicemente dico che la vita mia non so cos'è, ancora no, ancora no. Cerco chi mi darà la gioia che non